dimenticati e soli in questa avventura. Aspettavamo il tempo che se ne andava, davanti all'ombra di una mano straniera, nei nostri cuori il vuoto si riempiva. Sono le scelte che hai dovuto pagare, quelle più dure che hai saputo accettare. Avevi un debito col tuo grande orgoglio, ma il tuo futuro era scritto dall'alto. In questa terra che non chiede perdono, nell'amicizia ti aspettava un regalo. E anche se spesso ci siamo tolti il saluto, non ha importanza, ormai è acqua passata. Vedrai che presto cambierà qualcosa, amico mio, la vita l'hai vissuta. E tutti quelli che non credono niente saranno i primi a dire guarda che gente. Sopra una lacrima che scende in silenzio, tu mi gridavi quanto avevi sofferto. Eri un bambino che parlava d'amore, ma intorno avevi solo mille paure.